Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 27. Testo. L'uomo deve fare correzioni per ricevere la luce, e queste correzioni sono chiamate Sefirot. Ma la luce non cambia. Cos'è Sfirot? Sfirà? Sfirot. Esistono le Sfirot dentro le luci? Quali Sfirot ci sono? Ci sono Sfirot al di fuori dell'essere umano? Perché ci sono Sfirot? Sfirot sono una qualità, forza, e la luce è forza. Dentro la luce non ci sono Sfirot perché la luce non ha forma, non ha gusto. Sperimentiamo le nostre correzioni come 10 Sfirot, come 10 sapori. Possiamo vedere le Sfirot come luce, come uno spettro di luce, i sette colori dell'arcobaleno, ma più tardi ti dirò di più. Come tu sai, ci sono 10 Sfirot e le prime tre sono solo una luce che ci circonda. Possiamo solo sperimentare sette Sfirot e le altre tre, Keter, Chochmah e Binah, esse sono la luce che ci circonda. Benché ci sono 10 Sfirot, considerando la luce, non ci sono cambiamenti. Non c'è assolutamente alcun cambiamento dentro la luce. Noi siamo gli unici che cambiamo perché stiamo portando noi stessi in conformità con la luce. Come? Perché reagiamo in modo adeguato? E questo è quello che impariamo in Kabbalah. Questa è l'unica cosa che impariamo nella Kabbalah. Nella Kabbalah impariamo come la grossolanità della luce era strutturata. E questo lo chiamiamo mondo Olam singolare e Olamot plurale. Possiamo vedere le 10 Sfirot come una scala spirituale. E mentre stiamo apprendendo, e mentre ci stiamo portando in conformità, noi saliamo su questa scala. In un certo modo possiamo sperimentare questa scala spirituale dentro di noi, perché la luce fa incisioni che combaciano a queste incisioni. Quando diciamo che non ci sono cambiamenti perché parliamo di mondi, mondi spirituali, e quando c'è una scala del mondo spirituale, perché diciamo che non ci sono cambiamenti? La luce è strutturata in un certo modo, che ogni volta noi vediamo cose nuove. La prima luce è infinita. E questa luce infinita è circondata da una veste, e questa veste diventa ruvida e più ruvida. Ma dentro c'è ancora la luce infinita. La luce va da In Sof al mondo Asiya, e da mondo Asiya al nostro mondo. Il nostro compito è quello di portare su la forza. Così l'ultima e più ruvida veste la rende più sottile per raggiungere la luce, e la luce può raggiungerci. Quando raggiungiamo un tale livello grossolano, allora il Masach scompare. Questo Masach scompare e no, noi possiamo andare oltre, possiamo vedere mediante i nostri occhi interiori. L'ultimo è il più basso grado, e si ha visto della luce. Ma per noi, Assia è il primo grado, primo alto grado. E quando abbiamo raggiunto il mondo Assia, possiamo andare oltre. In un certo modo riceviamo qualcosa in più. E quando saliamo su questa scala, il grossolano della luce diventa meno, finché non abbiamo raggiunto il nostro livello più alto. E questo livello più alto è la vera realtà. Non pensare che la vera realtà è solo al livello più alto. Una volta risolto il primo schermo, quello che vedrai è meraviglioso. Puoi confrontare questo con una persona cieca che non ha visto nulla, e poi, dopo un'operazione, lui può vedere. Riesce a immaginare? Perciò noi non abbiamo bisogno di capire, solamente sforzo. Ricorda che non c'è comprensione nel vero spirituale. Usa questo sforzo per renderti ricettivo dall'interno. Poniti le domande. Desidera le risposte nello stesso modo in cui desideri ciò che tu desideri, qui. E ovviamente il lavoro deve essere fatto. E quando avrai tutti questi ingredienti, arriverai sicuramente all'esperienza spirituale. E quando tu avrai sperimentato una volta, tu vuoi sempre di più. Cosa sarà l'esperienza non ha importanza. Essa riguarda l'esperienza che ti dà una sensazione meravigliosa. Non pensare che io sto fantasticando. Quando sperimenterai, vedrai che non era fantasia. Il tempo è pronto. Il tempo è lì per farti sperimentare. E sappi che il tempo è pronto per tutti. Testo. Ora vedi che ci sono due soggetti dentro la preghiera. Noi chiediamo al Creatore di aiutarci e darci la libertà. Ora leggiamo molto e dopo ci sarà la comprensione. Quindi non c'è solo questo libro, ma farò di più per te. E tutto viene da Ari, non una parola da me. Più andiamo avanti, e più userò i testi originali di Ari, proprio come faccio con lo Zohar. Questo è il cambiamento. Più testo, più contenuti, sempre meglio. Perché? Sto crescendo, stai crescendo. E questo è perché posso andare sempre più in profondità. Prima lo Zohar nel modo in cui lo traduco per te. Non c'è nessuno al mondo che faccia questo e questo è unico. Non cambio una parola dallo Zohar, ma noi sentiremo sempre più in profondità. È lo stesso come con Ein Sof, la luce non cambia, noi cambiamo. Quello che faccio è portare lo Zohar qui a noi, così noi possiamo avere la liberazione definitiva. Non solo per me, ma per tutti voi. Testo, pagina 12, introduzione nella Kabbalah. Il desiderio, razzon, godere, il mattone della nostra creazione. Questa introduzione nella Kabbalah è scritta da Yehuda Ashlag e contiene circa 40 pagine. Rabbi Hanania disse: Boré desidera favorire Israele, quindi lui ha dato a loro la Torah e le prescrizioni. Rabbi Hanania è uno degli autori, una delle 10 luci che ha scritto lo Zohar. C'erano 10 luci. Tutte le luci erano rappresentate. Ogni persona aveva una connessione speciale con uno dei 10 Sfirot. Qualcuno aveva una connessione con Chochmah e un altro con Binah. Cosa significa questo? Quando hai 10 persone, ogni di esse ha una connessione speciale e la combinazione migliore è quando ogni persona rappresenta uno dei 10 Sfirot. Quando queste 10 persone erano insieme, c'era la luce di 10 Sfirot. Lo puoi immaginare, 10 sfirot in generale, che ogni persona ha 10 sfirot. È bello avere un insegnante e sapere che un insegnante è sufficiente. Quando vuoi più insegnanti, sappi che tu sarai confuso, perché ognuno di loro ha la sua combinazione speciale. Quando hai un insegnante, lo splendore sarà da una fonte. Ciò che intendo è questo. Dalla radice dell'anima del tuo insegnante. Forse la radice della tua anima è diversa, ma la radiazione viene dalla stessa sorgente. L'entrata della luce può essere diversa, ma proviene da un'unica sorgente. E questa radiazione viene a te dal tuo insegnante. Quando hai più insegnanti, allo stesso tempo è possibile che l'informazione provenga da differenti entrate. Ovviamente la radiazione in sé è la stessa. Quello che io intendo è questo. Il punto di vista sarà differente. E questo è ciò che può confonderti. Quindi è meglio avere un insegnante. Io ho il mio proprio ingresso, la mia propria anima, e ricevo da Ari. La scuola in Israele è collegata con Ashlag. Ashlag era un'anima grande, ma un'anima scientifica, molto alta, ma anche molto secca. Ashlag prese anche da Ari. Ma per me è meglio leggere Ari che Ashlag. Tu vedi che entrambi noi diamo dalla stessa fonte, è Ari. L'ingresso da cui proviene la luce di Ari è la porta nel mezzo. Alcuni cabalisti sono della sinistra. Io stesso vengo un po' della destra, ma Ari è nel mezzo. Quando uno cerca di formulare lo spirituale è quasi scientifico. E questo è quel che i fratelli di Israele stanno facendo. Questo è un modo molto lungo e difficile. Io voglio andare più veloce. Voglio andare dritto all'obiettivo. Non scendo a compromessi perché ti distrae. Ma naturalmente ognuno di voi è libero di fare le sue proprie scelte. Quando lavori su te stesso nella tua confortevole camera, in quel momento il mondo riceve un'enorme radiazione da ciò che stai leggendo. Questo non succede quando vai ai congressi e ti abbracci l'un l'altro. Dove sei? Certo che è carino. Ma sappi che questo è un atteggiamento dei moderni cabalisti. Ho letto molto materiale e mai ho visto alcun accenno di questo. Ma ora il moderno cabalista. Va ai congressi, parla e ascolta riguardo la cabala in una maniera sofisticata. Parlano della cabala per il tempo a venire. Ma il tempo a venire è nel presente. Non c'è futuro, solo il presente. Sviluppano una sorta di potere. Ma c'è il potere nella Kabbalah? Meno potere hai, e più salvezza ricevi. Appena pensi di capire, sappi che perderai il filo. Sai, il filo è un filo molto sottile. Non puoi mentire nello spirituale. È tutto su ciò che vuoi. Vuoi essere salvato? Quindi non camminare con la massa, non andare allo stesso modo proprio come fanno gli altri. Segui la strada di Ari. Lascia Ari che sia la guida che tu vuoi seguire. Io seguo Ari, ti do la via di Ari. Ma soprattutto quando vuoi uscire dalla massa e vuoi entrare in una relazione personale con lo spirituale, allora devi lavorare su te stesso. Ogni cosa dipende da te. C'è una legge spirituale. Non c'è violenza nello spirituale. Non consigliare la cabala o sconsigliarla. Ti do solo a te quello che vedo con i miei propri occhi, ai miei occhi vedono leggi anche. Quello che sperimento e vedo come un modo più veloce per arrivare all'eterno obiettivo, io lo passo a te. Questo è quello che faccio, ma tu sei libero di fare la tua propria scelta. Devi decidere da te cosa vuoi fare. Quello che provo è questo. Voglio andare più in alto possibile. In modo diretto voglio che tu ti porti al nostro obiettivo. Ho l'intenzione di portarti ad un punto culminante. A un'erosione così puoi sperimentare lo spirituale in modo puro insieme con me. Sai quanto ci vuole per la competenza, per la competenza. In un certo senso devi essere un po' asociale. Non essere sociale. Ogni cosa che fai in un modo sociale ti dà un calcio e dopo hai una sbornia. Quando ti unisci a un gruppo, in quel momento senti il potere, ma più tardi senti la depressione. Perché? Conoscere il vero lavoro spirituale è un processo individuale. Il tuo lavoro riguarda solo il tuo lavoro spirituale individuale. E questo è contrario alla massa, allo spirito di gruppo. Quando fai il tuo lavoro individuale, non ci sarà la sbornia. Naturalmente ci saranno alti e bassi, ma saranno tuoi, dalla tua anima. E questo accadrà quando inizierai da solo seduto nella tua propria stanza. Leggiamo ulteriormente nel testo. Noi dobbiamo comprendere qual è il privilegio che Boré ha dato a Israele. Qual è l'impurità? In ognuno di noi un'impurità che può essere dissolta con l'aiuto della Torah e le prescrizioni. In questo breve testo ci sono tante informazioni. Come già sai, Israele è lui e lei che si sforza di venire al Creatore in modo diretto. E la parola privilegio in ebraico è liskot, il verbo liskot. E questa parola ha la stessa radice della parola purificare, purificarsi. Quindi è bene conoscere un po' di ebraico, quindi puoi vedere che la Torah non è scritta in un linguaggio simbolico, descrittivo. C'è una connessione, una corrispondenza nella Torah tra le parole e le lettere, e le forze. Tra le parole e le lettere da una parte, e le forze da un'altra. Diventa simbolico per chi non comprende. Tuttavia diventa realtà quando lui ha un po' di comprensione. Il linguaggio simbolico è per la testa, ma in verità, considerando la forza, c'è l'esperienza e questo è quel che facciamo. Voglio venire con te all'esperienza. È più tardi alla comprensione, ma questo è per dopo. Il nostro obiettivo principale è ancora l'esperienza spirituale. Come ho detto prima, la radice delle parole privilegio è la stessa come per la parola purificare. Perché questo è dato a Israele? Perché lui ha scelto Israele e ha dato a loro il privilegio? E qual è l'impurità in tutti noi? Queste sono tutte parole d'Ashla. Testo. L'obiettivo della creazione è dare piacere in abbondanza. Dunque, Boré creò in ogni anima un'enorme mancanza, così che la creazione potesse ricevere il suo piacere. Lascia che ci sia la mancanza. E più mancanza hai, e più grande è il tuo cli, e più piacere tu ricevi. Queste due cose sono collegate così vicino con l'un l'altro che è impossibile dividerle. Cosa è stato creato? Il desiderio di ricevere. Quando abbiamo mancanza, possiamo ricevere. Supponiamo che tu non sei affamato e ti servono un pasto favoloso. Puoi gustarlo? L'essenza della vita è il desiderio di ricevere. Per favore, metti questo nel tuo cuore. Il desiderio. Il tuo desiderio di vivere deve crescere ogni giorno. Più questo desiderio cresce, quando hai il vero desiderio di vivere la vita vera, più tu riceverai. È tutto nella tua mano. Non c'è destino che lavori contro di te. Certamente hai il tuo destino personale, ognuno di noi nasce sotto un segno specifico e questi segni hanno influenza. Ma in realtà, quando il tuo desiderio per il vero spirituale è enorme, esci dal tuo destino. In effetti puoi cambiare il tuo destino. Ma quando vivi secondo le leggi della natura, allora sei soggetto del destino, proprio come è stabilito nel momento in cui sei nato. Ricorda questo. Solo allora i segni hanno influenza, quando non lavori a te stesso. Ma per loro che si tengono occupati con la Cabala, non c'è alcuna influenza. Per niente. Allora, non c'è nulla che possa influenzare. Sì, in verità. Tu hai il tuo destino nelle tue mani. Che cosa significa questo che il Creatore ha dato a Israele il privilegio? Perché Israele potrebbe purificarsi da loro stessi. Ma da cosa Israele? Da loro stessi si devono purificare. Tante domande, ma poi lui spiega. C'è luce, è dentro la luce. Dentro la sorgente c'è il desiderio di ricevere. In ebraico questo è Ratzon Lekabel. Ratzon è il desiderio di ricevere, e questo è dentro l'Ein Sof. Ein Sof è il desiderio di ricevere solo sono seduti insieme. Com'è possibile? Questo è difficile da comprendere. Come Come può qualcosa che è indiviso a due? Come può qualcosa che è indiviso avere due? Nell'Ein Sof c'è anche la sorgente della luce, come bene la sorgente per ricevere il Kli. Anche a un livello così alto, entrambe le uscite. E come ho detto molte volte prima, nella vera spiritualità c'è antitesi. Sembra impossibile, difficile da immaginare perché il nostro intelletto terreno dice che non è possibile due cose esistenti, due cose contrarie esistenti in una. Ma questa è la realtà. All'interno della luce c'è la radice del Kli, e questo è ciò che Ashlag vuole dirci. Anche il desiderio di ricevere viene dall'eternità. Tutti i nostri desideri vengono tutti dal Creatore. Non c'è comprensione, ma la sorgente del Kli è dentro la luce. Tutti i desideri sono dentro la sorgente. Guardalo in questo modo. Più un desiderio, la luce, diventa più e più ruvido e alla fine raggiunge il nostro mondo. Noi vediamo questo in un certo modo come oscurità. Per noi la luce è come oscurità. Ovviamente la luce è ancora luce, ma per noi siamo così lontani. Dal nostro punto di vista è oscurità. Quindi dobbiamo andare alla luce, dobbiamo purificare noi stessi, così possiamo sperimentare la luce. La luce viene irruvidita prima che arrivi all'essere umano, finché non diventa un desiderio qui sulla terra. Ecco perché tutto è così rozzo qui sulla terra. Rozzo dall'esterno, ma la vita reale, la nostra esistenza è dall'interno. Lasciatemi fare un esempio. Quando un astronauta va sulla Luna, è avvolto in un enorme imballo. È lo stesso con la nostra anima. La nostra anima è avvolta nel corpo. Nota che non siamo il nostro corpo. Il nostro corpo è solo l'imballo e l'anima è dentro, proprio come l'astronauta dentro il suo imballo. L'astronauta ha bisogno del suo imballo, altrimenti non potrebbe volare nello spazio. E anche noi abbiamo bisogno del nostro corpo per restare qui sulla terra. Per vivere sulla terra abbiamo ricevuto la veste perfetta, il nostro corpo fisico. Il nostro corpo è come la capsula e l'anima è dentro. Questo è molto importante da capire. l'astronauta ha bisogno della capsula per andare sulla Luna. Noi abbiamo bisogno del nostro corpo per stare qui sulla Terra. Faccio un altro esempio. Quando le persone parlano di astronauti, parlano della persona che si trova all'interno dell'imballo. Non parlano del suo costume. Parlano dell'astronauta, di chi è dentro la capsula. È lo stesso con noi. La tua realtà è dentro di te, non all'esterno, ma all'interno. Certo che senti le tue gambe, le tue mani, eccetera, ma riguarda solo i tuoi desideri. Quando sei affamato, non è lo stomaco, ma che fa. Non è lo stomaco che ha fame, il tuo stomaco non ha desideri di cibo, è il tuo desiderio per il cibo. Riesci a vedere questo? Le tue dita si muovono perché è il tuo desiderio che le tue dita si muovono. Quando non ci sono desideri, non accadrà nulla. Tutte le azioni che fai, la prima azione viene da ciò che è dentro di te. Le persone ti dicono che devi purificarti prima di poter sperimentare la luce. L'uomo deve purificarsi, significa che deve purificare il suo desiderio e non il suo stomaco. Quando pensi ancora di dover purificare il tuo corpo, la carne, sappi che è un pensiero infantile. Per lo scopo dello spirituale. Quello che faccio con te è di portare i tuoi nostri desideri in conformità con la luce. Stiamo andando ad esplorare tutti i mondi da sopra, da in sofa sotto. Lentamente viaggiamo fino al momento in cui nacque Adamo. Così possiamo vedere il materiale di cosa era e da dove nacque. Quando Adam era nato, tutti i campi della consapevolezza erano diversi, in un modo più elevato. Tutti i punti di forza erano collegati con ogni altro. Siamo stati portati in un campo più basso, il che significa che il nostro interiore fu portato giù. Ma quando questo accade, tutti i sedimenti di forza erano sparpagliati dentro di noi. Questa è la ragione perché sentiamo discrepanze dentro di noi, perché abbiamo così tanti dubbi, eccetera. E questo è necessario, così ora possiamo fare correzioni e ricostruire e tirare sui sedimenti in alto. E questo è ciò che si intende con la parola privilegio. Lui ha privilegiato Israele, significa. Lui che purifica i suoi desideri, costruisce il suo interiore, porta il suo interiore in conformità con il superiore. Ecco lui che fa questo è privilegiato. Ci vengono due cose in esistenza, luce e desiderio, razione. La luce or è abbondanza, shefa in ebraico, è il desiderio di ricevere razzon lekabel. L'abbondanza shefa è lo stesso come la luce. E c'è il desiderio di ricevere, e sono entrambi della stessa sorgente. È necessario per l'uomo sviluppare dentro di sé il desiderio di ricevere razzone cabel. Nessuna parola circa il dare. Il creatore vuole che noi riceviamo. Lui ha creato e lui crea dentro di noi il desiderio di ricevere, non il desiderio di dare. Questo è molto importante, quindi mettilo nel tuo cuore, solo il desiderio di ricevere è stato creato. Non il buono, non il uomo buono. Non c'è niente, non c'è buono in noi. Domanda, perché siamo stati creati a ricevere e non una creatura che vuole dare? Risposta. Sembra molto logico. Gli angeli vogliono dare perché? Perché un angelo è creato con il desiderio di dare. Un angelo non deve pensare. In un certo modo sono come i robot. Ma il creatore ha deciso di creare un vero partner, l'essere umano, nella sua grande saggezza e misericordia. Lui ci ha creati come suoi veri partner. E più avanti impareremo di più riguardo i punti di forza. Riguardo ai monti, mondi di Adam Kadmon, eccetera. Impareremo tutte le varietà, tutte le incorporazioni della luce. Gli angeli hanno una libertà, una libera volontà? Assolutamente no. In un certo senso non è una domanda giusta, perché lui ci ha creati? Perché, vedilo in questo modo, un pezzo di keramica, o perché? Un pezzo di ceramica può dire all'artigiano perché mi hai fatto in questo modo. Non c'è posto per dare tale domanda. Non c'è posto per una tale domanda. Sarà diverso quando chiederai perché lui ha creato il desiderio di ricevere e non il desiderio di dare. Quindi la mia risposta è: il desiderio di ricevere quando la creazione vuole ricevere, la creazione riceve la luce. In tutti i tipi di varietà, è quando una persona riceve la luce si sente bene. Insieme con la luce, lui riceve un sapore della qualità della luce. Il primo ricevere è come il ricevere per un bambino. Prima il bambino appena nato riceve solo il latte della madre e più tardi la madre dà al suo bambino un altro tipo di cibo fino al momento in cui è cresciuto e diventa un adulto. Allora lui non ha bisogno che sua madre lo nutra. È lo stesso con la luce. Quando la luce dà e tu ricevi la luce, anche il creatore riceve. Cosa riceve lui? Lui riceve la qualità, il sapore di dare. Non la luce stessa lo riceve, ma il creatore. Abbiamo già letto nel primo testo. C'è la luce e il desiderio di ricevere. Questo è dentro la radice. Ogni cosa viene dalla radice. Il desiderio è la qualità della luce dare nella stessa radice. Due qualità in una radice. In cima c'è dare e di sotto c'è la parte ricevente. Come? È difficile da comprendere. Non possiamo avere una comprensione di questo con il nostro intelletto. Dobbiamo andare oltre la nostra comprensione. In ebraico questo è lemala me'adah, oltre la tua comprensione. Ma il tuo desiderio di ricevere crescerà quando vai più in profondità. E più grande il tuo desiderio di ricevere sarà, la luce entra e dentro la luce c'è la qualità di dare. Ma per ora ci manca la forza di ricevere. Perché? In un certo senso siamo nascosti per la luce. Ora siamo come un embrione che giace nel grembo di nostra madre e riceviamo tramite il cordone ombelicale il cibo che nostra madre mangia. Il cibo, il nutrimento, è nel sangue. E quando il bambino è nato, la madre gli dà il latte. Il latte è un nutrimento diverso, e quando un bambino diventa più grande, la madre gli dà il pane. E in seguito il cibo diventa più grezzo. Ha più struttura. Come ho detto prima, il cibo cambia quando diventa più grande e con questo la sua forza cresce. La sua comprensione cresce fino a che diventa un adulto e può sentire da sé la qualità della luce. È la luce di lui stesso che lo lascia sentire. E quando questo accade, lui sente vergogna. È la sensazione di io posso solo ricevere. Ma più tardi noterà che dentro questa ricezione ci sta la qualità di dare. E lui vede che dare è una qualità superiore, essa dà più intuito, è forza di quel desiderio di ricevere. Perciò lui inizia a dare, non solo semplicemente dando, perché prima di dare lui non ha la forza di ricevere seguito della correzione tikkun in ebraico. Lui corregge il desiderio di ricevere per se stesso nel desiderio di dare per dare. Lui fa questo perché non ha la forza di ricevere. Nel primo testo abbiamo visto cosa era stato creato. Il desiderio di ricevere, non il desiderio di dare. C'è un errore nel piano del creatore. Quando ricevo la luce, sento che la qualità della luce è dare. Non è meraviglioso? Quando ricevo la luce, vedo che qualità di dare è più alta, è più perfetta, eterna. Poi provo anche a dare. Non perché era il mio desiderio, ma perché era dentro la luce ricevente. Solo pochi possono venire a questo vero desiderio di dare. È colui che viene alla Kabbalah ha qualcosa in lui, in lei. Ha già assapora la luce, il donatore, e poi viene alla Kabbalah. Spesso intuitivamente. C'è una spinta dentro di lui. Lui non comprende, ma assapora qualcosa del desiderio di dare in modo reale. Come e perché impareremo in seguito. Ma prima c'è solo la forza di dare per dare. Ma alla fine dobbiamo venire al desiderio di ricevere. Desiderio di ricevere per dare. Ricevere per dare è lo scopo della creazione. Quando hai la forza, anche tu riceverai. Ma il ricevere sarà come da un bambino cresciuto e non il ricevere di un bimbo, perché te lo sei guadagnato in modo onesto. E questa è la differenza tra Adam e noi. Sappi, tutti noi raggiungiamo le stesse condizioni come le aveva Adam. La differenza è che tu l'hai guadagnato tramite un duro lavoro che hai fatto. Hai fatto del tuo meglio e l'hai fatto in un modo molto consapevole. C'è differenza tra le persone che ricevono le cose del nostro mondo materiale e quelle che ricevono in modo spirituale. Sai, viene dalla stessa sorgente. In un certo senso la sorgente è la stessa, perché i Kilin è lo stesso. Non ci sono altri Kilim. Nei primi tempi i Kilim erano diversi, più egoisti, ma ora tu modifichi questo Kilim in un Kilim più altruistico. Lo stesso Kilim, ma la tua intenzione, la tua forza sta cambiando. Perché hai l'intenzione di cambiare. Anche la natura del ricevere cambia. C'è ancora il ricevere, ma come ricevi, questa è la differenza. Non pensare che c'è qualcosa di sbagliato nel ricevere egoistico. Ogni cosa deve essere visto considerando l'obiettivo eterno. Considerando un essere umano è un desiderio non sviluppato. Ma possiamo noi incolpare un bambino perché è ancora un bambino? Ricorda, siamo creati con il desiderio di ricevere. Solo più tardi, quando io e te siamo più avanti nel nostro sviluppo spirituale, significa che noi possiamo aiutare gli altri. Come possiamo aiutare gli altri? Perché tu ed io stiamo lavorando su noi stessi. E grazie a ciò aiutiamo gli altri. Ora viviamo in un tempo in cui più persone arrivano al vero spirituale. Con questo intendo colui che lavora su se stesso. Nei tempi precedenti c'erano poche persone, ma ora sempre più persone stanno diventando più consapevoli, cambiando le loro intenzioni, ma ancora noi siamo la parte ricevente. Un uomo può avere la volontà di condividere con il mondo. Cosa c'è di sbagliato in ciò? Tu devi sapere e mettilo nel tuo cuore. Non c'è niente di sbagliato con il ricevere anche nell'egoistico, nell'egoismo dell'uomo. Tieni sempre in mente l'obiettivo della creazione. Tutti noi sentiamo un po' di potenza, una forza naturale. Ma nessuno può forzarti. I comunisti lo hanno provato. Quando mi fui laureato, ero su una base libera per lavorare in un campo. Ma non c'era scelta di dire no. Questo è quello che i comunisti intendono con fare del volontariato. Nel vero spirituale non c'è forza, nessuno può forzarti a ricevere in modo altruistico. Non è sbagliato riceverlo. Non c'è nulla di sbagliato nell'egoismo. Perché no? Si tratta di sviluppo. Ci sarà un tempo in cui avrai il gusto del dare, dato a te dalla luce. E quando sentirai questo sapore come conseguenza, ti senti vergognoso perché dall'interno ora diventi consapevole di ricevere per te stesso e questo sarà un'enorme vergogna. Fin quando uno non ha sperimentato questo, cosa ha sbagliato? Non giudicare mai un'altra persona. Tu hai la Kabbalah. Tu vuoi dare, ma lui è ancora inconsapevole del vero dare, del desiderio di dare. Quindi non giudicare o incolpare un'altra persona. Quando lo fai, infrangi la legge più importante delle Kabbalah, non c'è forza, non c'è violenza. In Kabbalah, nello spirituale. Non spingere mai un'altra persona. Nello stesso modo voglio impostare questo corso. Ognuno è libero di venire e andare. Non ci sono regole perché ognuno di voi ha il proprio sviluppo. Differenti livelli, così sia. La vita che vivi ora è solo un momento. Posso spingere qualcuno? Può aiutarti? Ricorda, ognuno ha il suo proprio sviluppo. È sufficiente per te occuparti del tuo proprio sviluppo. E questo è possibile perché in un certo modo siamo tutti collegati l'uno con l'altro. E questo è il salvataggio. Quindi non ci sono regole in questa cabala. Tu sei qui su una vera base volontaria. Nessuno ti spinge e non spingere gli altri.